Certamente il Signore avrà pietà di Giacobbe e sceglierà ancora Israele, li ristabilirà sulla loro terra. Lo straniero si unirà ad essi e sarà incorporato alla casa di Giacobbe. I popoli li prenderanno e li condurranno nel loro paese. La casa di Israele se li approprierà sul suolo del Signore come servi e serve, e faranno prigionieri quelli che li avevano fatti prigionieri e domineranno sui loro oppressori. Nel giorno in cui il Signore ti avrà liberato dalla tua pena, dalla tua irrequietezza e dalla dura servitù con la quale sei stato asservito, tu proferirai questa satira contro il re di Babilonia e dirai: come ha finito l'oppressore, è cessata l'arroganza. Il Signore ha spezzato la verga degli iniqui, lo scettro dei dominatori. Colui che furioso colpiva i popoli con colpi senza fine, che collerico dominava le nazioni, perseguitando senza respiro. Tutta la terra si riposa, è tranquilla, e rompe in gridi di gioia. Anche i cipressi gioiscono per te, ed i cedri del Libano. Da quando giaci prostrato, i tagliaboschi non salgono più contro di noi. Dal basso lo Sheol si agita per te, per farsi incontro al tuo arrivo. Per te esso risveglia le ombre, tutti i potenti della terra. Ha fatto sorgere dai loro troni tutti i re delle nazioni. Tutti prendono la parola per dirti: anche tu sei stato fiaccato come noi, sei diventato simile a noi. Il tuo fasto è disceso nello Sheol come la musica delle tue arpe. Sotto di te si stendono le larve, i vermi sono la tua coperta. Come sei caduto dal cielo, astro del mattino, figlio dell'aurora. Come fosti precipitato a terra, tu che aggredivi tutte le nazioni. Eppure tu pensavi in cuor tuo: salirò in cielo, al di sopra delle stelle di Dio erigerò il mio trono, siederò sul monte dell'assemblea, ai confini del settentrione, salirò sulle nubi più alte, sarò simile all'Altissimo. E invece sei stato precipitato nello Sheol, nelle profondità dell'abisso. Quanti ti vedono, ti guardano fisso, verso di te guardano. Questi è colui che faceva tremare la terra e faceva scuotere i regni, che ridusse il mondo in deserto, demolì le sue città e non aprì ai suoi prigionieri il carcere? Tutti i re delle nazioni, tutti riposano gloriosi, ognuno nella propria tomba. Tu invece sei stato gettato in sepolto come un abominevole rampollo, coperto da uccisi, da trafitti di spada, deposti sulle pietre della fossa come una carogna calpestata. Tu non sarai insieme ad essi nella sepoltura, poiché hai rovinato il tuo paese, hai massacrato il tuo popolo. Non sarà più nominata la discendenza degli iniqui. Preparate il massacro per i suoi figli, a causa dell'iniquità dei loro padri. Non sorgeranno più per conquistare la terra e coprire la faccia del mondo di rovine. Insorgerò contro di loro, oracolo del Signore degli eserciti, e distruggerò di Babilonia il nome ed il resto, stirpe e discendenza, oracolo del Signore. La renderò possesso del riccio, una palude stagnante, la spazzerò con la scopa della distruzione, oracolo del Signore degli eserciti. Il Signore degli eserciti ha giurato: Certo, come ho pensato, così sarà. E come ho deciso, così succederà. Spezzerò l'Assiro nella mia terra e sui miei monti lo calpesterò. Il suo giogo sarà rimosso da essi ed il suo peso sarà rimosso dalle loro spalle. Questa è la decisione presa per tutta la terra e questa è la mano distesa su tutte le nazioni. Quando il Signore degli eserciti prende una decisione, chi la potrà annullare? E quando la sua mano è distesa, chi potrà fargliela ritirare? Nell'anno della morte del re Acaz fu pronunziato questo oracolo. Non rallegrarti, Filistea tutta intera, che la verga che ti percuote è stata spezzata, poiché dalla radice del serpente uscirà una vipera e il suo frutto sarà un drago volante. I poveri pascoleranno sui miei prati ed i miseri riposeranno sicuri. Ma farò morire di fame la tua posterità ed ucciderò ciò che resta di te. Gemi, o porta, urla, o città, trema, Filistea, tutta quanta. Poiché dal settentrione arriva un fumo e nessuno si sbanda nelle sue schiere, che risposta si darà ai messaggeri della nazione? Il Signore ha fondato Sion. In essa trovano rifugio i poveri del popolo.